Allora, mancano 10 minuti alle 11 e la musica, questa musica dei Balcani ci porta appunto in quella terra. Dunque, come avevamo annunciato, questa nuova trasmissione di Radio Onda Rossa, che si chiama appunto Più scheletri che armadi per contenerli. E nei Balcani di scheletri noi ne abbiamo parecchi, appunto più degli armadi per eventualmente contenerli. Dunque, questa trasmissione però è un po' particolare, intanto perché è partita da un contributo di alcuni ascoltatori, o per meglio dire di alcuni compagni che ascoltano Radio Onda Rossa. Il loro ruolo non è di ascoltatori ma di compagni, però ascoltano anche Radio Onda Rossa, tra le altre cose, che hanno proposto... attraverso un loro contributo di fare questo tipo di lavoro, che dovrà vedere la partecipazione attiva di tutti coloro che ascoltano e tutte coloro che ascoltano Radio Onda Rossa. E appunto gli scheletri nell'armadio sono quelli che andiamo a cercare, ma non nei luoghi istituzionali o nelle carte, che pure poi sono oggetto di studi storici che alcuni storici validi fanno, ma noi vorremmo cercare nelle casse della gente, là dove tutte voi, tutti voi, forse se siete giovani ce l'avrà vostra nonna, vostra madre, vostra zia. La famosa scatola delle scarpe che c'è in ogni casa italiana, sicuramente in qualche armadio, in genere insieme alla biancheria, una scatola in cui ci sono le fotografie d'epoca, vecchie, fotografie fatte da qualche parente militare mandato a morire, ad ammazzare sui campi del tentato imperialismo italiano. Tentato imperialismo, ma riusciti massacri che l'esercito italiano, sotto le bandiere a volte sempre tricolori, a volte con lo stemma sabaudo, a volte anche con quello repubblicano, hanno compiuto e continuano a compiere. Dunque, noi quindi questa trasmissione si basa su un tentativo di ragionare storicamente in merito a quanto ai massacri, ai tentativi imperiali fatti dagli eserciti italiani al servizio dello Stato italiano dall'Unità d'Italia ad oggi. Poi ci soffermeremo soltanto su alcuni punti, ma l'aspetto centrale non è soltanto una ricerca storica fatta attraverso i libri, che pure ve ne sono di validi, intanto per sfatare il mito degli italiani brava gente, ed è proprio da qui che partiremo, ma soprattutto appunto di corredare questa ricerca non solo con i testi che appunto pure vedremo insieme, con i libri, le ricerche storiche fatte, ma con le fotografie che voi sicuramente avete ricercandone tra i parenti, tra gli amici, che ci sono fotografie o anche testi dei soldati che a volte venivano presi prigionieri o a volte dai campi di battaglia scrivevano a casa. Le fotografie però sono molto eloquenti, perché per esempio alcune che ci ha mandato un compagno, che poi le vedremo, le discuteremo insieme, si vedono proprio i massacri fatti dalle truppe italiane nei Balcani. E dunque potete facilmente, per mandare una fotografia basta scannerizzarla, cioè passarla sotto lo scanner, e poi il risultato in digitale lo allegate ad una mail e ce la inviate a Radio Onda Rossa, ossia le mail è ondarossa@ondarossa.it, molto semplice da ricordare. Noi tutte queste foto le metteremo in una galleria che andrà a finire sul sito di Radio Onda Rossa, che appunto sarà consultabile da tutti e tutte. Credo che se ci si metta a lavorare venga fuori una bella galleria di fotografie dell'orrore, degli scheletri, appunto dei tragedie fatte dagli eserciti italiani nel mondo, in particolare nei Balcani, in Grecia, in Albania e anche in Africa, nel Corno d'Africa e in Libia, questi terreni su cui l'imperialismo italiano ha tentato di espandere, appunto costruire il proprio impero. Dunque, oggi iniziamo questa trasmissione che invece vedrà, oltre questo appello che facciamo, quindi mandatecela perché sarà importante intanto queste fotografie che ci manderete, o anche a volte lettere, che spesso i soldati, no, quando stavano la sera, scrivevano a casa e raccontavano cose non ufficiali, cioè dicevano di aver visto gente morire di fame, dei villaggi distrutti e massacrati, a volte raccontavano e spesso raccontavano anche cose reali. Ricordiamo per tutti, che so, i racconti di Lussu, quell'anno sull'altipiano, cioè molti racconti, anche perché molti soldati dell'esercito italiano erano fatti da proletari, spesso da compagni, e quindi non gradivano l'obbligo che dovevano fare, cioè di andare a combattere per l'impero, però insomma lo facevano, però poi raccontavano cose molto interessanti. Bene, quindi questo è l'appello che facciamo. Oggi inizia la prima trasmissione che parlerà appunto dei Balcani. Utilizziamo intanto un pregevole studio storico fatto da Davide Conti, che abbiamo qui da noi e che salutiamo, e che si chiama proprio così: L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini, questo è il titolo, il sottotitolo: Crimini di guerra e mito della brava gente. Brava gente messo tra virgolette, perché è appunto un luogo comune degli italiani brava gente. Tra l'altro è un contesto utilizzato molto da Angelo Del Boca per smitizzare anche lui questo luogo comune rispetto però ai crimini fatti in prevalenza nel Corno d'Africa e in Libia. Gli anni sono dal 40 al 43. Il libro è per le edizioni Odrate, che è uscito quest'anno, credo, vero Davide? Quest'anno è appena uscito. Quindi adesso lui presenterà il libro, quindi parleremo di questo libro che è incentrato molto sui massacri, sul tipo di repressione, oltre che sulla ribellione della gente, dei partigiani, ma anche spesso della gente jugoslava che si opponeva a questa occupazione un po' feroce, ma soprattutto del tipo di repressione che emerge con chiarezza, spesso era peggiore di quella per esempio fatta dai nazisti in Italia, e che lì non differiva molto dalla violenza appunto nazista. Quindi le truppe dell'asse, siano esse italiane o siano tedesche, in realtà attuavano una repressione abbastanza simile, questo tanto per appunto non criminalizzare i tedeschi e non assolvere gli italiani. Bene, di questo parleremo tra un attimo, poi insieme a Davide Conti, insieme al compagno che ci ha mandato queste fotografie, commenteremo insieme appunto queste foto che riguardano proprio degli eccidi avvenuti in alcune zone del Montenegro, zona appunto occupata dalle truppe italiane. Mini musicanti, zahrajte mi čardaš 1. oktobra, mam rukovat kana kartka kudlu, koslu gađa, začin deuterove u mire jaka, mire vavutara, baša vem čardaši, kaj mangete kela, mire taka, mire vavutara. Kaj mangete kela, mire daka. Eccoci qua in diretta, iniziamo quindi questa trasmissione. Allora, di nuovo salutiamo Davide Conti, che ha scritto questo libro, di cui andiamo a leggere i primi due paragrafi della prefazione. Leggerò io, poi lasciamo a lui la parola. Inizia così la prefazione: italiano palicuccia, non so se pronuncio bene, che vuol dire una cosa molto preoccupante. Dunque, discutendo degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e della resistenza in Europa, un partigiano romano molto conosciuto, che dopo la liberazione di Roma dall'occupazione nazista aveva continuato la guerra contro il nazifascismo nei Balcani, mi raccontò di come, nonostante egli combattesse nelle file delle formazioni della resistenza del Montenegro, percepisse nei suoi confronti una certa remora e una latente diffidenza da parte proprio di quei civili e degli stessi componenti montenegrini delle brigate combattenti. Questa diffidenza, mi spiegò poi Rosario Bentivegna, era lui il combattente, che in Montenegro fu commissario politico delle brigate partigiane, traeva la sua origine dalla condotta del Regio Esercito Italiano di Occupazione, che, coadiuvato dalle milizie fasciste, aveva operato in quella regione, in Montenegro, internamenti, fucilazioni, spopolamento di intere cittadine, repressione antipartigiana e incendi di decine di villaggi locali, tanto da portare la popolazione civile a ribattezzare il soldato italiano proprio con questo termine, palicucca, ossia incendiario, perché bruciavano i villaggi, ossia i bruciatetti, voleva dire. Continua questa. L'immagine, la percezione stessa nella presenza delle truppe del Regio Esercito nei Balcani era piuttosto difforme dunque dalla consueta e stereotipata figura del bravo italiano, dell'occupante pacifico e bonario, di una faccia, una razza, questo che si diceva, molte volte rappresentata dai giornali, dal cinema e dalle stesse istituzioni culturali e politiche della Repubblica. In Slovenia, in Serbia, in Croazia, in Montenegro, in Grecia e in Albania, l'italiano aveva avuto il volto dell'occupante e dell'aggressore, responsabile della fame, dei bombardamenti, delle privazioni, delle stragi di civili, con la quale solitamente viene descritto invece il nazista tedesco. E poi l'ultima frase, e poi lascio la parola a Davide: nell'ex regno di Jugoslavia, infine, l'intervento italiano si collocò pienamente all'interno della più ampia prospettiva strategico-militare di controllo dei Balcani da parte dell'asse, ossia gli italiani si comportarono con la stessa linea tattica e strategica dell'asse, ossia che era poi il comando nazista dell'occupazione dell'Europa e in questo caso dell'asse. Allora a te, Davide. Sì, diciamo, questo libro è nato appunto da una serie di riflessioni emerse durante le discussioni con Rosario Bentivegna, che, come ricordava prima Salvatore, in Montenegro è stato partigiano e commissario politico, quindi aveva un ruolo di responsabilità direttiva del movimento di resistenza jugoslavo. E nasce sostanzialmente per affrontare tre punti, tre questioni dirimenti fondamentali. La prima, appunto, riguarda uno studio dei crimini effettivamente commessi dalle truppe del Regio Esercito, quindi analizzare la loro condotta, analizzare non solo la metodologia di occupazione, ma anche il senso politico che queste repressioni di massa hanno avuto e avevano, anche all'interno di una competizione tra le stesse istituzioni civili e militari italiane. Il secondo punto riguardava il cercare di capire i motivi per i quali alla fine della Seconda Guerra Mondiale nessun soldato italiano, nessun militare italiano, neanche dei vertici, quindi degli esponenti con maggiori responsabilità direttive, era stato processato e quindi era stato chiamato a rispondere dei crimini di guerra commessi nelle aree occupate dalle truppe italiane insieme con l'asse. Il terzo punto invece che mi interessava affrontare e capire era quello relativo alla costruzione, al consolidamento del mito del bravo italiano, e soprattutto comprendere, cercare di capire, di coniugare al presente quel tipo di mito, cioè come questo mito così fortissimamente radicato nella mentalità popolare dell'opinione pubblica italiana sia ancora oggi uno strumento assolutamente centrale del consenso intorno alle missioni cosiddette di pace delle truppe dell'Italia, delle truppe militari dell'Italia repubblicana. E appunto tra l'altro un ruolo che hanno avuto proprio ancora una volta nei Balcani in occasione dello smantellamento della Jugoslavia, che è stato proprio un ruolo pacifico, insomma. Certo, cioè lì hanno utilizzato anche un retaggio che veniva da lontano rispetto alla presenza italiana in Albania, e quindi tutta quanta una serie di diciamo addentellati storico-politici che appunto vengono da lontano e che hanno naturalmente, nella coniugazione dei tempi moderni, hanno avuto hanno mantenuto una certa unità di indirizzo per quanto riguarda la presenza politica non militare in Albania, in Kosovo in particolare. E noi diciamo, io vorrei partire prima ancora però che dall'occupazione dell'aprile del 41, dall'analizzare una fase storica molto poco conosciuta, che invece secondo me rappresenta un'importante chiave di lettura anche per gli eventi post bellici, perché molto spesso si parla appunto quando si affronta il tema del confine orientale della questione delle foibe, quindi di quello che poi è successo e accaduto nel periodo subito successivo la fine della guerra. E volevo partire proprio dagli inizi degli anni 20, che rappresentano secondo me una chiave di lettura molto, molto importante per capire gli eventi successivi, anche proprio in relazione a una questione complessa come quella del fenomeno delle foibe. E vorrei partire appunto da un discorso spesso, diciamo, anche dal punto di vista storiografico abbastanza messo da parte, che è quello dello scontro sociale nella zona istriana, quindi del conflitto sociale di classe che si in qualche maniera si compose nell'area geografica appunto del confine orientale. Tra il 20 e il 21 appunto lo scontro sociale nella zona istriana arrivò sull'onda lunga del Biennio Rosso alla sua fase più acuta, e nel quadro di questo conflitto si erano composti sostanzialmente due schieramenti: da un lato le masse contadine e operaie e dall'altro appunto i proprietari terrieri, gli industriali, che rappresentavano naturalmente anche dal punto di vista dell'appartenenza nazionale la componente italiana. E quindi il conflitto, diciamo così, italo-jugoslavo comincia ad assumere una forma, un connotato principalmente sociale, come retaggio del Biennio Rosso e come retaggio naturalmente della Prima Guerra Mondiale. Quindi elementi diciamo nazionali, storico-nazionali legati al conflitto bellico ed elementi politici e sociali legati al retaggio del Biennio Rosso si coniugano in questa particolarissima area, determinando delle condizioni atipiche rispetto anche ad altri confini, anche ad altri contesti anch'essi magari conflittuali, ma ai quali mancava questa duplice chiave di lettura che ne caratterizza naturalmente la composizione. E se noi pensiamo che appunto per quanto riguarda la presenza italiana in Jugoslavia, il piccolo di Trieste nel luglio del 20 titolava "Le fiamme del Balkan", adesso spiegheremo che cosa è il Balkan, "purificano finalmente Trieste e purificano l'anima di tutti noi", ci rendiamo conto appunto di quale fosse il grado di contrapposizione nel contesto del confine orientale tra Italia e Jugoslavia. Che cos'è il Balkan? Il Balkan era la Casa del Popolo, che aveva sede appunto in questo che era un hotel, una locanda all'epoca, probabilmente gli hotel non esistevano e per come li conosciamo oggi, e quindi diciamo presso questa locanda aveva sede la Casa del Popolo e nonché questa Casa del Popolo venne assaltata da gruppi di squadristi che nello stesso giorno attaccarono anche il consolato jugoslavo e poi nei giorni successivi anche le tipografie dei giornali Edinost, le banche, la Banca Adriatica, la Banca di Credito di Lubiana e anche le sedi di cooperative slave, proprio perché appunto la presenza a Trieste di queste componenti non rappresentava soltanto una diversificazione dal punto di vista nazionale, diremmo oggi etnico, ma anche e soprattutto un elemento di aperta conflittualità sociale sul territorio. Se noi pensiamo che a Trieste nel solo 1919 furono emesse 50 condanne per complessivi 120 anni di carcere contro i ferrovieri in sciopero, che erano accusati non solo di appunto sostanzialmente insubordinazione dal punto di vista sociale, ma e cito testualmente, anti-italianità e filoslavismo. Quindi la componente, diciamo, nazionale si univa alla componente sociale, per cui ovviamente questo tipo di connotazione molto particolare fece sì che sull'onda lunga del Biennio Rosso si sviluppò e si sviluppasse anche un movimento fascista e squadrista che non aveva sostanzialmente eguali in nessun'altra area del paese, cosa appunto che poi sostanzialmente confermò lo stesso Mussolini, che in una sua visita a Trieste in un comizio tenuto appunto in quella città disse, e le sue parole poi furono riportate sul Popolo d'Italia, disse: in altre plaghe d'Italia i fasci di combattimento sono appena una promessa, nella Venezia Giulia sono l'elemento preponderante e dominante della situazione politica. Quindi questo significa che il fascismo trova proprio nella chiave dell'esasperazione nazionalista e nella chiave della repressione dei movimenti sociali, del movimento proletari, dei lavoratori, trova una coniugazione particolarissima che ne consente non solo l'affermazione locale, ma la predisposizione per un modello che poi sarà naturalmente esteso a livello nazionale. Questa è secondo me una premessa doverosa, perché molto spesso si lega soltanto la presenza italiana nella Seconda Guerra Mondiale ai fenomeni poi di sostanzialmente reazione successiva all'occupazione delle truppe del Regio Esercito. Questo è un elemento assolutamente importante, perché nella prima ondata cosiddetta delle foibe del 43 è assolutamente presente, prima ancora che l'elemento nazionale, quell'elemento, diciamo, di rivalsa sociale che i contadini in particolare di quelle terre svilupparono nei confronti di quelli che erano i proprietari terrieri, i possidenti o comunque tutti coloro che in qualche maniera avevano sostenuto l'azione dello squadrismo. Con questo appunto retaggio si caratterizzarono le foibe del 43. Quelle del 45 invece assunsero una connotazione maggiormente incline al nazionalismo e quindi al conflitto, diciamo, nazionale. Per quanto riguarda poi, facendo, diciamo, un salto assolutamente di molti anni, insomma, qui stiamo parlando della nascita del fascismo, arriviamo praticamente alla parte per fortuna conclusiva del regime, per cui parliamo della presenza dall'aprile del 41 delle truppe del Regio Esercito nell'area jugoslava. L'Italia occupò sostanzialmente la parte della Slovenia e quindi tra l'altro non in maniera così entusiasta, se vogliamo usare questo termine, perché era l'area, diciamo, meno sviluppata economicamente, con una presenza di materie prime e quindi di potenziale sfruttamento territoriale molto molto più bassa delle aree per esempio occupate dalle truppe naziste tedesche, e occupò appunto l'area che poi venne definita l'area slovena, che venne definita della provincia di Lubiana. Nella parte invece a sud della Jugoslavia, le truppe italiane occuparono, partendo dall'Albania, l'area del Montenegro e poi naturalmente nel 1940 avevano invaso la Grecia, e quindi diciamo che da quel punto di vista l'estensione e la direzione strategico-militare si muoveva lungo un crinale di sostanzialmente chiusura del Mar Mediterraneo e di controllo dell'area dei Balcani, che rappresenta da sempre un'area geopoliticamente molto molto importante, ha una valenza strategica particolare per la sua posizione e per la sua configurazione anche geografica. Le forme, la condotta delle truppe del Regio Esercito fu una condotta naturalmente tutta declinata al controllo dell'ordine pubblico e poi progressivamente al mantenimento di questo ordine pubblico attraverso una repressione che fu proporzionalmente in grado di espandersi per quanto aumentavano al contrario le difficoltà di contenimento e del movimento partigiano e dell'opposizione civile degli abitanti delle aree, che ovviamente solidarizzavano col movimento di resistenza, creando quelle condizioni assolutamente indispensabili per lo sviluppo di qualsiasi movimento clandestino di guerriglia. E proprio sull'elemento della controguerriglia si determinò un rincrudimento fortissimo della presenza italiana in quell'area, a partire appunto in particolare dall'inizio del 1942. Dall'inizio del 1942, perché appunto la difficoltà di tenere il controllo completo dell'ordine pubblico spinse e obbligò i comandi e i vertici militari italiani all'applicazione di una serie di misure militari molto precise, studiate, concordate con la direzione politica, quindi non era soltanto un elemento di carattere, per così dire, militare, ma c'era assolutamente una unità di intenti. Questa è una cosa anche importante, perché sottolinea il carattere già in partenza imperialista e quindi naturalmente militarista della presenza italiana, se ce ne fosse bisogno, perché stiamo parlando comunque del contesto della Seconda Guerra Mondiale. Per cui dicevo che dall'inizio del 42, in particolare dal febbraio del 42 col piano Primavera, e poi successivamente dal marzo del 42, dal primo marzo 42 con l'elaborazione di un nuovo piano operativo di repressione e controllo territoriale denominato Circolare 3C e redatta dal comandante del secondo corpo d'armata Mario Roatta, sostanzialmente la presenza italiana assunse un carattere molto molto molto forte rispetto alla repressione territoriale. Il piano Primavera del febbraio 42 sostanzialmente fallì, cioè portò a dei danni molto ingenti dal punto di vista della distruzione delle case, delle deportazioni, degli internamenti, delle fucilazioni, ma non riuscì a portare i risultati militari che i vertici dell'esercito volevano raggiungere. E perché appunto il movimento partigiano continuò a crescere e naturalmente questo significava sabotaggi, difficoltà di mantenimento dell'ordine pubblico e soprattutto difficoltà anche per quelle industrie italiane che avevano largamente finanziato i corpi di controguerriglia di utilizzare e sfruttare le materie prime. Pensiamo all'Italcementi dell'ingegner Pesenti, pensiamo alla Fiat. Tutte queste industrie che avevano sostanzialmente largamente finanziato l'avventura coloniale, così la interpretavano, naturalmente si trovavano nella condizione di non poter usufruire sostanzialmente delle materie prime, e quindi si trovavano nella loro logica ad aver fatto un investimento inutile da questo punto di vista. Per cui si svilupparono progressivamente dei piani di controllo dell'ordine pubblico molto più duri potenzialmente, e soprattutto si foraggiarono diverse costituzioni di vari corpi di controguerriglia, la Bella Garda, la MVAC, che è un acronimo di, che significa Milizia Volontaria Anticomunista, la Bella Garda, che significa la Guardia Bianca, che ricordava appunto che ricordava i corpi controrivoluzionari nella Russia immediatamente successiva alla rivoluzione d'ottobre, e quindi tutti questi corpi di controguerriglia specializzati in questo tipo di attività venivano riorganizzati sulla base principalmente del controllo dell'ordine pubblico e del controllo delle aree adibite allo sfruttamento economico, sostanzialmente. Queste formazioni di controguerriglia, anche qui insomma, è un elemento secondo me da sottolineare, perché dimostra il concorso di più agenti all'interno della politica d'occupazione italiana. Questi corpi di controguerriglia erano naturalmente fortissimamente sostenuti, ed anzi in alcuni casi erano stati addirittura costituiti dalla Chiesa Cattolica che era presente in Jugoslavia. E, naturalmente per quanto riguarda ad esempio la MVAC, la Bella Garda, essa venne costituita grazie all'attività molto, diciamo, zelante del vescovo di Lubiana, Rozman, e della Chiesa Cattolica Croata, naturalmente, che in questo quadro di azione unitaria di controguerriglia e di azione unitaria antipartigiana sostenne fortissimamente anche naturalmente gli ustascia croati di Ante Pavelic, che per ben due volte, tra l'altro, era stato ricevuto dal Papa in persona, sia prima che dell'occupazione, sia dopo. Tant'è vero che si pensa che sia stato lo stesso Vaticano a favorire, come scrisse tra l'altro lo stesso Indro Montanelli in un articolo sul Giornale, a favorire la sua fuga in Argentina, attraverso la cosiddetta via dei topi. E appunto dicevo che queste componenti di controguerriglia, la Bella Garda e la MVAC, furono assolutamente sostenute dal vescovo di Lubiana Rozman e da un altro personaggio molto importante, molto rilevante, che ci fa fare un salto nel tempo, ci fa arrivare al 2000, all'anno del Giubileo, quando venne proclamato beato. Stiamo parlando dell'arcivescovo di Zagabria, Monsignor Alojz Stepinac, che appunto fu uno degli esponenti del clero croato che più si impegnarono nel sostegno ad Ante Pavelic, più si impegnarono nel sostegno all'attività criminale delle milizie ustascia, e che appunto Papa Giovanni Paolo II ha proclamato beato nel 2000. Ricordiamo che lo stesso Stepinac venne condannato dalle autorità jugoslave al termine del secondo conflitto mondiale a un certo numero di anni, mi sembra di ricordare 14, di lavori forzati e prigionia, proprio per le sue azioni di sostegno, di finanziamento, di copertura politica nei confronti dei criminali ustascia, e quindi di tutte quante quelle azioni che erano state da loro sviluppate sul territorio, i rastrellamenti, le deportazioni, la costruzione di campi di concentramento e di sterminio, nel quadro appunto di una politica che era sostenuta dal Vaticano per una ragione molto semplice: per favorire la penetrazione e l'allargamento della presenza cattolica in un'area, appunto dicevamo prima, geopoliticamente molto importante dal punto di vista strategico, in un'area a maggioranza musulmana e ortodossa soprattutto. Quindi questo conflitto interreligioso è un altro elemento che si compone come potenziale determinazione della condotta più generale e delle truppe ustascia, ma soprattutto anche delle truppe del Regio Esercito. Volendo, insomma, si potrebbero menzionare moltissimi crimini di guerra. Poi, tra l'altro, nelle foto che sono qui in radio e sono state inviate, che menzionava prima Salvatore, sono ben visibili le repressioni di massa, gli arresti, le deportazioni, quindi magari poi ne potremo discutere insieme. Io mi limito a ricordare uno diciamo dei fatti più impressionanti, che è quello della cosiddetta cintura di Lubiana, che probabilmente insieme alla circolare 3C redatta da Roatta rappresenta una delle cose che a livello anche di impatto, di immaginazione, rendono meglio probabilmente le modalità della presenza e della repressione italiana in quelle aree. Sto parlando appunto della cintura di Lubiana cosiddetta, cioè una sostanzialmente un'operazione militare che determinò il completo recinto della allora città più importante della Slovenia, che oggi è la capitale dello Stato sloveno, la completa recinzione con filo spinato di tutto il perimetro della città. E qui stiamo parlando del 24 febbraio del 1942. Questo reticolato chiuse ogni via d'accesso alla città, non si poteva né entrare né uscire, e vennero installate oltre 60 diciamo posti di blocco, torrette di controllo che impedivano appunto l'accesso e l'uscita dalla città. Completato questo recinto, lungo 41 km di perimetro e predisposti questi posti armati, vennero avviate ben due razzie dentro la città. La città venne divisa in 13 settori, perquisita per ogni settore, tra l'altro in una modalità particolarmente caotica, che determinò ulteriori danni, perché spesso i settori già perquisiti e già rastrellati da un gruppo venivano perquisiti e rastrellati anche da un altro gruppo per una mancanza di coordinamento, quindi anche da questo punto di vista i danni furono maggiori, se è possibile diciamo dire così. Furono raccolti, secondo i documenti pubblicati da Tom Ferenc, che è uno studioso scomparso da poco, che è uno dei più importanti studiosi jugoslavi del tema, furono raccolti, così dicevano i documenti italiani, 18.708 uomini controllati nelle caserme con l'aiuto dei delatori sloveni, che erano naturalmente entravano nelle case dissimulati col volto coperto, 878 dei quali furono immediatamente mandati nei campi di concentramento italiani. Questa fu la prima razzia di Lubiana, poi ce ne furono altre naturalmente, però questo, diciamo, questa costruzione di questo enorme campo di concentramento a cielo aperto, che di fatto venne costruito intorno a Lubiana, dà l'idea della presenza italiana già dal febbraio del 42, della caratteristica della presenza italiana, che poi progressivamente andò rincrudendosi nelle modalità, perché naturalmente più aumentavano, come dicevo prima, le difficoltà di controllo dell'ordine pubblico e territoriale, più aumentava la forza del movimento partigiano, maggiori erano le difficoltà quindi delle truppe del Regio Esercito, e più dure erano le repressioni, che assunsero dei caratteri effettivamente di massa, tanto che a Roma venne istituito, diretto da Giuseppe Guelli, l'ispettorato di guerra, che si occupava sostanzialmente di deportazioni e di ordine pubblico, quindi di repressioni di massa. E vennero spediti nelle aree della Jugoslavia occupata, della Grecia, eccetera, personaggi come Pirzio Biroli, operavano generali come Ambrosio, Roatta, Robotti, che naturalmente arrivarono a delle forme di repressione di massa talmente larghe che si giunse sostanzialmente all'esecuzione di cosiddette rappresaglie, ovvero veri e propri crimini di guerra, per una proporzione di 1 a 50, cioè se cadeva un militare italiano durante un attacco partigiano, venivano rastrellati in larga parte familiari dei partigiani stessi o abitanti dei villaggi limitrofi all'azione militare, E venivano fucilate 50 persone per ogni italiano caduto. Questo per noi, insomma, che abbiamo vissuto le fosse ardeatine, le fosse ardeatine. È un bel problema, esatto. 5 volte più. Ecco, io prima di passare poi alla seconda fase, che è l'analisi di quelle fotografie, volevo farti una domanda. Ecco, come mai non c'è sta, ne parli alla fine del libro, una Norimberga per i Balcani, rispetto ai quali molti dirigenti italiani avrebbero fatto la figura dell'Eichmann? Oppure questa è sicuramente l'elemento più importante, probabilmente, al di là naturalmente della drammaticità delle repressioni di massa, questo è evidente. I motivi sono da ricercarsi tutti nella configurazione dei nuovi equilibri bipolari e quindi della guerra fredda. Sostanzialmente la costituzione di una nuova ideologia che sostituiva quella della grande unità militare antifascista, della grande alleanza tra Unione Sovietica, Stati Uniti, Inghilterra e Francia, quindi l'unità antifascista internazionale, venne progressivamente sostituita già nel corso della guerra da una nuova, naturalmente una nuova ideologia, che era quella dell'anticomunismo, certo. Dell'anticomunismo di Stato. Certo. Questa cosa già entra nella resistenza, il rapporto che gli alleati hanno con le due fazioni della resistenza italiana, i Badogliani e i Rossi, in realtà non è, comincia a un certo punto a vedersi proprio la marcazione di questa differenza. Sì, sì, sì, e questo è l'elemento naturalmente centrale che naturalmente fa capire i reali motivi per i quali non vennero celebrati e istruiti neanche un processo contro criminali di guerra italiani. E per quanto riguarda le relazioni dei paesi occupanti, vennero consegnate alla Commissione delle Nazioni Unite relazioni con i nomi di centinaia, poi li riportiamo qui alla fine del libro, con nomi di centinaia di militari italiani che avrebbero dovuto rispondere dei crimini, certo, di guerra, che loro stessi poi ammisero in buona parte di aver commesso, perché sostanzialmente di fronte alle richieste jugoslave, in particolare della Commissione jugoslava, il Ministero allora della guerra, oggi della difesa, italiano, organizzò naturalmente, cominciò a organizzare la raccolta di informazioni per costituire una forma di difesa dei militari italiani. Per cui ci fu nell'immediato dopoguerra sostanzialmente una raccolta di testimonianze di militari italiani presenti sul posto, che in larga parte naturalmente confermavano ai vertici del Ministero della guerra e poi che poi divenne della difesa, il tipo di condotta che venne in qualche maniera a rappresentarsi nelle aree occupate dei Balcani. E noi appunto troviamo delle testimonianze di militari italiani che confermavano le repressioni di massa, confermavano gli eccidi, la presenza di campi di internamento, la deportazione, perché poi nel quadro del totale oblio in cui è caduta la vicenda dell'occupazione delle imprese coloniali e imperialiste italiane, si sono cancellati anche i ricordi presenti sul territorio italiano, perché quando noi parliamo di deportazione delle popolazioni slave, delle popolazioni greche, delle popolazioni albanesi, parliamo di deportazioni che portavano migliaia di persone nei campi di internamento, sia presenti in loco, costruiti dal Regio Esercito, sia negli oltre 200 campi di internamento che noi abbiamo avuto in Italia. In Italia, certo. Questa è una cosa importantissima, perché il totale oblio che si è avuto su questo aspetto, appunto la presenza dei campi di internamento italiani in Italia, secondo me rappresenta perfettamente la riuscita operazione di cancellazione completa della memoria, anche perché se noi consideriamo che questi campi di internamento erano dislocati in cittadine molto spesso piccole, abitate da piccole comunità che naturalmente hanno una forma di ricordo, di memoria collettiva molto molto forte, e si ricordano magari il fatto di cronaca avvenuto 40 anni prima, ma se si parla loro della presenza di campi di internamento, quasi nessuno o addirittura nessuno di delle persone che abitano queste piccole comunità ricorda la presenza di campi di internamento nella propria città, in cittadine di 1.000 abitanti, di 2.000 abitanti. in cui appunto un campo di internamento con la deportazione di centinaia di persone, tra l'altro provenienti da paesi stranieri, non sarà sicuramente passato inosservato. Però l'attività di assoluta cancellazione della memoria storica di quello che è stata non solo il fascismo ma le sue imprese coloniali ha avuto come risultanza il totale oblio anche delle piccole comunità della condotta fascista. Per ritornare al discorso della mancata Norimberga, è un elemento quello importantissimo. Naturalmente la logica e la giustizia avrebbe suggerito di celebrare dei processi contro i criminali di guerra italiani, veri o presunti che fossero, insomma, celebrare questi processi avrebbe significato naturalmente la sostanziale decapitazione dei vertici militari fascisti. Certo. Naturalmente. Questo avrebbe comportato che cosa? Una riorganizzazione completa dell'esercito, magari con l'inserimento di capi partigiani in posizioni, quantomeno di quadri intermedi, di quadri dirigenti. Avrebbe quindi spinto molto in là un processo di automatica epurazione e rinnovamento democratico dello Stato, che nelle condizioni che si erano determinate immediatamente alla fine del secondo conflitto mondiale non erano assolutamente compatibili con le necessità di ricostruzione di un sistema dispositivo, un sistema di militare, un dispositivo cosiddetto di sicurezza, che poi prenderà il nome della NATO, che tutti conosciamo. E quindi questa epurazione avrebbe determinato in seno alla NATO un rallentamento del riarmo di paesi appunto come l'Italia, di paesi come la stessa Germania, che ha celebrato la propria Norimberga ma ha avuto un grado di continuità certo non paragonabile a quello italiano, naturalmente, perché ovviamente Norimberga per i tedeschi, almeno per l'opinione pubblica, per il popolo tedesco, ha rappresentato l'assunzione della responsabilità della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto della nascita e dello sviluppo del nazionalsocialismo. Certo. Tutto questo in Italia è assolutamente mancato. E le logiche della Guerra Fredda, quindi di un rapido riarmo italiano e di un rapido inserimento dell'Italia all'interno del blocco militare della NATO, ha garantito ai vertici militari fascisti sostanzialmente l'impunità, ha garantito una continuità dello Stato assolutamente decisiva anche per quanto riguarda la storia successiva dell'Italia repubblicana. Noi abbiamo vissuto negli anni dell'Italia della Repubblica. L'80% dei prefetti erano tutti di provenienza fascista. Esatto. E quindi naturalmente questo nell'Italia, che poi negli anni 60 e 70 ha subito anche pericoli di e minacce di involuzione autoritaria, eccetera, eccetera. Questo tipo di retaggio, a mio giudizio, rappresenta l'elemento centrale che poi ha caratterizzato anche la vita successiva del paese. Per cui appunto la logica della Guerra Fredda, l'anticomunismo come elemento di nuova formulazione di una alleanza militare antisovietica, determinò la non istruzione dei processi contro i criminali di guerra italiani. Parallelamente a questo, però, c'è da sottolineare la costruzione del mito del bravo italiano, che è assolutamente assonante con e funzionale alla mancata celebrazione dei processi. Perché se la mancata celebrazione dei processi rappresenta un passaggio sostanzialmente istituzionale, cioè che coinvolge le decisioni e le scelte dei governi, noi qui abbiamo appunto poi pubblicato delle lettere che De Gasperi aveva scritto agli ambasciatori americani ed inglesi per sollecitare un loro intervento, onde evitare sostanzialmente la richiesta di consegna e di estradizione dei criminali di guerra italiani in Jugoslavia, perché particolarmente erano gli jugoslavi a sollecitare processi contro gli italiani. Abbiamo pubblicato appunto questo tipo di lettere che evidenziano questo tipo di passaggio, che però rappresenta un passaggio, come dicevo prima, istituzionale, cioè che coinvolge le scelte dei governi. Dal punto di vista della formazione del consenso dell'opinione pubblica, il mito del bravo italiano ha assolutamente svolto una funzione fondamentale, perché da un lato ha consentito una sostanziale autoassoluzione dell'opinione pubblica, perché naturalmente il fascismo non era stato, come poi aveva cercato di rappresentare Croce, una parentesi, no, era stata la particolarissima risposta delle classi dirigenti e della classe borghese italiana all'ingresso delle masse, cioè, nella vita pubblica dello, cioè, Stato. E quindi dopo la prima guerra mondiale, un tentativo di cambiamento degli assetti ottocenteschi, diciamo. Sì, sì, sì, sì, esatto. E quindi diciamo all'ingresso delle masse la classe dirigente italiana rispose sostanzialmente col fascismo. Quindi, e non solo la classe dirigente, ma anche tutta quella componente molto articolata, complessa, che noi definiamo genericamente ceto medio, aveva dato consenso, certo, a questo tipo di movimento, a questo tipo di... Gli ha dato il seguito di massa, gli ha fornito proprio le gambe. E quindi ovviamente il regime fascista aveva goduto di un consenso largo, come poi anche ha evidenziato lo studio di De Felice, che naturalmente ha posto proprio come elemento innovativo questo tipo di prospettiva, la prospettiva del consenso. Quindi, ritornando al mito del bravo italiano, il mito del bravo italiano rappresentò una possibilità di fuoriuscita dalla responsabilità del fascismo senza neanche un momento di riflessione su quello che era stato il popolo italiano durante il regime, cioè sul consenso che aveva dato a Mussolini, sul consenso che si era sviluppato intorno alle imprese coloniali, perché insomma quando Mussolini annuncia il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma da Palazzo Venezia, la folla acclama, i giornali, il Corriere della Sera, cioè tutta, ma soprattutto la mobilitazione di massa, esatto, cioè l'emigrazione nelle terre occupate, il miraggio della grande proletaria, della terra promessa, la Chiesa Cattolica che vede un veicolo per portare la religione, cattolica lì dove è meno sviluppata, è meno presente. E quindi tutto questo elemento del consenso al fascismo viene sostanzialmente con un colpo solo completamente cancellato. Attraverso che cosa? Attraverso il mito del bravo italiano, cioè attraverso quella raffigurazione, quell'autoraffigurazione, autorappresentazione dell'italiano come appunto militare sostanzialmente bonario, militare che non dispone misure repressive contro la popolazione, ma anzi fraternizza con essa. Lo ricordavi tu prima all'inizio della trasmissione, una faccia, una razza. Questo è poi un retaggio talmente profondo che si è addirittura ha trovato addentellati anche nella cultura, diciamo, di sinistra. Noi pensiamo a un film come Mediterraneo, in cui appunto questo gruppo di italiani in Grecia senza spiegare il motivo sostanzialmente della presenza eccetera, fraternizza con la popolazione, gli ridipinge la chiesa, gli fa i lavori di ristrutturazione del paese. Insomma, se pensiamo, non è un gruppo di muratori, non esatto, era certo. Esatto, vabbè, sì, ma infatti. E quindi il mito del bravo italiano serve perché naturalmente se sul piano delle scelte dei governi a livello internazionale i processi non si devono celebrare, dal punto di vista interno si deve creare una predisposizione presso l'opinione pubblica a rappresentare l'italiano come un soldato che non deve essere processato in quanto innocente sostanzialmente. E questo è, sono come dire, i mancati processi e la costruzione del mito del bravo italiano rappresentano due facce della stessa medaglia. Su questo poi si sviluppa tutto un percorso di costruzione presso l'opinione pubblica di un sentire, di un humus comune, appunto del luogo comune, del mito del bravo italiano, dell'italiano brava gente, che ha delle differenze che progressivamente però sbiadiscono e poi scompaiono direttamente. Noi nell'immediato dopoguerra abbiamo tutta la componente dell'antifascismo moderato, quindi liberali, monarchici, la Democrazia Cristiana naturalmente, che attraverso suoi uomini come ad esempio Zoppi al Ministero della Difesa evita che i criminali di guerra vengano estradati e processati all'estero. Dicevo, l'antifascismo moderato, liberali, monarchici e democratici cristiani, sui loro organi di partito, nella loro propaganda, appunto avviano questo processo, diremmo, di canonizzazione del soldato italiano. Quindi si oppongono all'estradizione, cercano di prendere tempo. Inizialmente sostengono che i processi verranno istruiti, ma in Italia, per evitare l'estradizione e i processi nei paesi dove i crimini di guerra erano stati commessi. Poi in realtà questo tipo di proposta si svela per quello che è, cioè un tentativo sostanzialmente di non far celebrare i processi. In questo quadro la sinistra socialcomunista nei primi anni del dopoguerra si pone in maniera, diciamo, conflittuale a questo tipo di lettura e sostiene sostanzialmente il diritto dei paesi dell'Albania, della Jugoslavia, i paesi africani, l'Etiopia, l'Eritrea, la stessa Libia, di estradare i responsabili dei crimini e processarli secondo il diritto internazionale in quei luoghi. Progressivamente, e vengono anche pubblicate delle foto molto, molto importanti, in particolare dall'Avanti, che appunto rappresenta dei massacri e delle repressioni perpetrate in Montenegro e delle impiccagioni di partigiani su ordine di Orlando. E quindi naturalmente questo determina nel quadro politico italiano, non ancora definitivamente composto, un certo grado di conflittualità che in qualche maniera riflette la conflittualità internazionale che si è disposta tra il blocco occidentale e quello orientale. Progressivamente, andando avanti con la composizione dei governi di unità nazionale e poi con il seguito della storia repubblicana post 48, la questione dei criminali di guerra viene assolutamente messa da parte, e anche la sinistra in tempi diversi, prima il Partito Socialista, poi soltanto, diciamo, verso quando ormai la questione è sostanzialmente definita, anche il Partito Comunista, come a prendere atto di una situazione già definita, in qualche maniera si associa a questo tipo di vulnus, a questo tipo di linea, non sposandola esplicitamente, ma evitando di determinare continui conflitti rispetto alla condotta del governo De Gasperi. Il Partito Socialista, diciamo, è il primo partito della sinistra che modifica la sua posizione, passa appunto dal sostegno alle richieste di estradizione alla proposta di processare in Italia i colpevoli, i responsabili dei crimini di guerra, per poi appunto sostanzialmente abbandonare. Il Partito Comunista, ripeto, ha un cursus un po' diverso perché naturalmente secondo i tempi dell'ingresso, poi nelle più o meno dell'ingresso nell'area di dialogo con la DC, questi passaggi. Sì, diciamo che sì, il sostanzialmente quello del Partito Comunista è più un assumere una sconfitta sul piano politico che non una scelta naturalmente del partito, non fosse altro perché naturalmente c'erano dei rapporti diretti all'interno del mondo comunista con i paesi di cui si parlava, appunto, cioè l'Albania, la Jugoslavia, eccetera. Quindi diciamo è più un prendere atto di una sconfitta sul piano politico che una scelta esplicita del partito, ecco, questo va detto per onestà intellettuale. E per quanto riguarda appunto la costruzione di questo mito, questo assume una caratterizzazione che si radica talmente tanto nella mentalità comune che travalica anche il suo stesso respiro strategico. Cioè, se il mito del bravo italiano aveva avuto dal punto di vista dei governi e delle alleanze internazionali una funzione assolutamente centrale nel periodo della guerra fredda, la cosa che stupisce e che poi appunto abbiamo riscontrato sfogliando i giornali degli anni 90 è il perdurare di questo mito, cioè il non superamento di un falso storico. Perché questo mito ritorna come elemento positivo per quanto riguarda il sostegno alle, alle missioni militari all'estero degli italiani. Ci fu tutta all'inizio degli anni 90, con la caduta del muro di Berlino e la fine sostanzialmente della Guerra Fredda, ci fu un momento in cui appunto la questione dei crimini di guerra italiani riemerse, in particolare con gli studi che tu prima citavi di Del Boca, che si erano occupati e si sono sempre occupati della questione della presenza italiana militare in Africa. E addirittura poi ci fu una diciamo, questo tipo di argomentazione ebbe un forte impatto anche mediatico, perché si innescò una polemica durissima tra Montanelli, all'epoca direttore del Giornale, e lo stesso Del Boca, perché appunto Montanelli, che aveva partecipato come giornalista alle missioni in Africa, sostanzialmente negò anche fino all'inverosimile la presenza e l'utilizzo da parte italiana dei gas micidiali contro la popolazione civile durante i bombardamenti in Africa. Al termine, diciamo, di questa querelle politico-storico-giornalistica, prese la parola direttamente il governo italiano. All'epoca mi sembra che si parli del governo Dini, quindi un governo tecnico. Mm-hmm. Anche questo è un elemento importante, perché fu un ministro della difesa, ex generale dell'esercito, a riferire in Parlamento affermando l'utilizzo, quindi confermando l'utilizzo di questi gas micidiali. Sì. Quindi l'elemento del governo tecnico, secondo me, non è secondario, perché appunto dimostra come invece poi la composizione di governi politici portino ad assumere, anzi, posizioni potenzialmente più dispersive, in qualche maniera dissimulatorie su queste questioni, mentre invece un governo tecnico in piena crisi di transizione del sistema politico italiano ebbe sostanzialmente la forza di andare in Parlamento e confermare quello che gli studi e le carte avevano già detto ampiamente. E appunto quello che mi ha incuriosito e che poi mi ha portato appunto ad arrivare sostanzialmente fino al discorso di Napolitano sulle foibe durante la prima celebrazione della giornata del ricordo, è proprio appunto questo tipo di cortocircuito sostanzialmente della memoria, perché il mito del bravo italiano appunto è un mito che è probabilmente una delle ultime cose che è sopravvissuta al crollo del muro di Berlino, del vecchio quadro politico. Cioè un mito appunto che tutto incentrato sulla bonarietà della presenza militare italiana. Appunto noi oggi, nonostante l'esercito non sia più quello del regime fascista, ma sia un esercito repubblicano, se viene mandato in Afghanistan, viene mandato per costruire la pace, in missione di pace. Addirittura poi con regole di ingaggio particolari, che gli stessi militari spesso contestano e gli stessi alleati della NATO contestano, perché ovviamente poi i passaggi sono contraddittori anche tra loro. E appunto noi pensiamo alla nostra presenza in Afghanistan, in Libano, in Iraq, e quindi il mito del bravo italiano serve per in Kosovo. Noi abbiamo inventato la missione umanitaria, la guerra umanitaria, cioè veramente un ossimoro giuridico oltre che di buon senso. Diciamo di buon senso, umano, penso io. Quindi questo mito è rimasto come retaggio antico e soprattutto come costruzione del consenso intorno alle missioni militari. Cioè in una società in cui appunto la conformazione del quadro politico va verso la semplificazione sia partitica che del momento decisionale, quindi con una spiccata prevalenza del potere esecutivo. E una società che viaggia verso una presenza e un ruolo dei militari sempre maggiore, pensiamo all'ideologia della guerra permanente, quindi a livello internazionale, quindi come elemento di ricostruzione, di riformulazione degli equilibri politici, sociali e di vita stessa delle società moderne. Ecco, il mito del bravo italiano rappresenta esattamente una formula che consente di ricompattare nuovamente, ricostruire un consenso intorno all'utilizzo dei militari, che oggi noi vediamo per le nostre strade addirittura per raccogliere la spazzatura, certo, sì, come se fosse insomma una polizia municipale sostanzialmente. E la cosa, diciamo, che forse più colpisce a proposito del cortocircuito della memoria è appunto il discorso di Napolitano e le polemiche che poi seguirono a questo intervento del Capo dello Stato, perché appunto determinò un elemento contraddittorio nella stessa lettura istituzionale della presenza italiana in Jugoslavia. Appunto, nel febbraio del 2007, durante il primo intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della giornata del ricordo, Napolitano disse sostanzialmente: già nello scatenarsi di una prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell'autunno 43 si intrecciano, dice Napolitano, giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia. Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo, quindi anche dal punto di vista proprio della dizione slavo può essere un ungherese, può essere un russo, comunque diciamo annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 47, quindi ritorna anche qui un altro mito, il mito del diktat del 47, del trattato di pace come struttura punitiva nei confronti dell'Italia, come se l'Italia non fosse stata responsabile dello scatenarsi della guerra. E quindi continua Napolitano, che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica. Quel che si può dire di certo, continua Napolitano nel modo più evidente, con la disumana ferocia delle foibe, una delle barbarie del secolo scorso, va ricordato l'imperdonabile orrore contro l'umanità costituito dalle foibe, ma egualmente l'odissea dell'esodo e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell'Italia tornata libera e indipendente, ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale. È il discorso che faceva Almirante all'indomani di questa cosa. È veramente, Barbaro. Insomma, stato fu diciamo, terribile. Dal punto di vista anche istituzionale, è un falso storico. Una, sì, diciamo, oltre che una, ma... appunto, proprio una forzatura che determinò un conflitto istituzionale, perché naturalmente l'allora presidente della Croazia Mesić, certo, ricordò a Napolitano che la presenza italiana in Jugoslavia, in Croazia, in Slovenia, in Serbia aveva portato distruzione, lutti di ogni genere. L'Italia era lo stato aggressore e la Jugoslavia lo stato aggredito, e che i danni di guerra nonché i criminali di guerra italiani non erano mai stati consegnati alla Jugoslavia, né come risarcimento dei danni di guerra né come risarcimento di giustizia rispetto alla celebrazione dei processi. Per cui la cosa diciamo singolare fu il cortocircuito della memoria, perché a quel punto a seguito della reazione di Mesić intervenne l'allora ministro degli esteri D'Alema, esponente dello stesso partito di Napolitano, che disse in conferenza stampa, e qui veramente appunto il cortocircuito della memoria: è una reazione, disse D'Alema, che stupisce e addolora in quanto immotivata. Mesić dovrebbe sapere che si rivolge al presidente dell'Italia democratica e antifascista. La reazione di Mesić appare tanto più sorprendente di quanto non coglie le parole vere di Napolitano. L'Italia democratica ha più volte riconosciuto quanto sia grave ciò che ha fatto il fascismo nei Balcani. Parliamo di un grande paese che non ha mancato di denunciare gli orrori della guerra fascista nei Balcani. D'altro canto, continua D'Alema, e qui il cortocircuito è assoluto, il presidente croato dovrebbe sapere che molti degli uomini che poi hanno dato vita alle forze politiche democratiche del nostro paese hanno combattuto a fianco dei partigiani jugoslavi e contro l'occupazione nazifascista. Quindi i partigiani jugoslavi, accusati qualche giorno prima da Napolitano di essere sostanzialmente esecutori di una pulizia etnica, perché di questo si parlava, quindi avevano evidentemente, secondo D'Alema, che è vero, combattuto insieme agli italiani, quindi anche gli italiani avevano fatto pulizia etnica di italiani. Quindi nel cortocircuito della memoria, nella difficoltà di una ricostruzione che non può assolutamente essere non contraddittoria in questi termini, appunto si palesò questa incongruenza. Naturalmente nessun giornalista pose questa questione in conferenza stampa, naturalmente, però appunto che esponenti della sinistra, dell'ex partito comunista, rappresentino e in qualche maniera ormai avallino questa lettura storica, che è parallela tra l'altro alla la lunghissima ormai campagna di delegittimazione della resistenza, perché lo stesso Napolitano parlò di zone oscure nel suo discorso di insediamento da Presidente della Repubblica, zone oscure della resistenza. Quindi questi due elementi vanno verso quella che è un vero e proprio, una vera e propria contraddizione in termini, appunto quella che passa sotto il nome di memoria condivisa e che dovrebbe rappresentare sostanzialmente la nuova composizione, certo, dei conflitti di qualsiasi genere a livello ideologico, quindi la composizione dei conflitti politici, la composizione dei conflitti sociali. Certo, se, e infatti arriviamo al giornale di oggi, che ieri a Via Tasso Alemano ha detto che la resistenza l'ha fatta anche la destra, certo, i fascisti, quindi non si capisce chi combatteva contro chi. E, vabbè, erano utili. Bene, noi ti ringraziamo per questa prima parte, Davide. Adesso un piccolo stacco musicale, poi dopo questo stacco musicale andremo ad analizzare le fotografie che rappresentano alcuni di quei massacri. Цыгане любят песни, но песни не простые. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна. Ой, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна. Seconda parte di questa trasmissione, è un po' lunga ma speriamo che sia interessante. Adesso mettiamo in contatto Davide Conti, che sta qui, lo storico che ha scritto questo libro e che ci ha raccontato alcuni aspetti, insomma, di questo libro, e un compagno che da molto lontano, che sente la radio in streaming, però in Italia, ci ha mandato alcune foto e insieme commentate queste foto. Io vi lascio la parola. Intanto salutiamo il compagno ascoltatore che ci manda queste foto. Ciao Gavino, buongiorno. Buongiorno Salvatore, buongiorno Davide Conti. Ecco, io la mia parte riguarda semplicemente la raccolta di queste memorie attraverso le persone che sono state protagoniste di questa vicenda, o perlomeno che hanno partecipato in un modo o nell'altro a questa vicenda. Devo dire che il ritrovamento di queste fotografie non è stato del tutto casuale. Sono quelle cose che in famiglia finiscono prima dal comò, poi in soffitta o addirittura in cantina, e qualcuno le va a recuperare. Queste fotografie fanno parte di un album, una specie di diario fotografico di un alpino dell'undicesimo battaglione misto genio Alpigraie, che era la divisione che avevo occupato insieme alla divisione Pusteria al Montenegro negli anni 40. Questo alpino parte con una macchina Foiglander a soffietto, è proibito fare fotografie, avere il possesso di una macchina fotografica, però lui gode di un privilegio anche personale, oltre al fatto di essere in questo battaglione genio che era partito semplicemente per fare opere di lavoro di genio militare. La guerra popolare montenegrini partigiani distruggevano ponti, distruggevano le linee telefoniche e telegrafiche, questo battaglione genio doveva ricostruire quanto era possibile perché le truppe italiane potessero muoversi. Ha una situazione particolare perché gli viene affidato la guida di un camion, di un autocarro B52, e lui da questo, muovendosi per il trasporto di materiale, per il trasporto del rancio alle truppe del genio disperse a lavorare nella zona del Montenegro di Nisic, cuore del Montenegro vicino alle montagne del Durmitor, riesce a scattare alcune fotografie prima di vita, dei lavori che fanno gli alpini del genio, poi di vita militare, e poi improvvisamente arriva il generale Pierzio Biroli. Il generale Pierzio Biroli, a vederlo così, sembra un D'Artagnan di Borgata, questo personaggio triste. Quando arriva il generale Pierzio Biroli, la situazione delle fotografie cambia. Non sono più fotografie di vita militare, ma incominciano a esserci fotografie di quanto sta succedendo, di quanto stanno facendo, come le fucilazioni, di cui vediamo una fotografia, questi cadaveri di partigiani che hanno subito l'esecuzione, la fotografia di questi altri che sono una popolazione dei dintorni di Nisic su questo gretto del torrente, a custodirli lì prigionieri c'è un soldato della divisione Ferrara, e poi la fotografia triste di questa montenegrina. Per raccontare la storia, io ho riconosciuto fra i personaggi che erano ripresi durante la vita militare, diciamo, un amico, questo signore che era tornato in pensione, era tornato a fare la sua antica arte, che era quella del rilegatore. Lui mi curava i libri, me li rilegava, me li restaurava. Io frequentavo il suo laboratorio nel pomeriggio, così terminato il lavoro andavo da lui, lui mi raccontava quando era stato in guerra queste cose. Allora io colgo l'occasione di chiedere cos'era stato questo suo soggiorno in Montenegro, e noto una certa riservatezza, ma anche una vergogna di raccontare questo periodo. Dice: sono successe tante cose drammatiche. Allora io poco a poco incomincio a dire: ma è vero che ci sono state? Non gli ho mai detto dell'esistenza di queste fotografie. Gli chiedevo così, dicendo: ho saputo che era successo questo, e lui mi diceva: eh sì, purtroppo queste cose sono successe. Io per fortuna avevo un lavoro che mi teneva staccato, e dico: ma Achille, che lavoro faceva? E lui mi dice: lavoravo presso la segheria, facevamo strutture per la ristrutturazione di queste opere distrutte, ma soprattutto facevamo casse da morto per gli italiani che venivano uccisi e mandati in Italia. E la cosa terribile, perché mi racconto, un giorno arriva un ordine di 150 casse da morto nel giro più breve, e lui dice: eravamo là solo per morire, per ammazzare. E mi faccio raccontare anche un pochino di questi fatti, e lui mi dice: guarda, chi sapeva più di queste cose era un'altra persona, e mi dice: il Giovanni, tutte persone che abitavano qui nella zona. E io vado a parlare con questo Giovanni, e questo Giovanni in un primo tempo anche lui è abbastanza riservato nel parlare, quasi, fra il vergognoso e non aver voglia di rimuovere certe situazioni, di riprendere certe situazioni. E io gli dico, ma quella montenegrina che c'era lì, così, il fotografo era innamorato di questa ragazza. E lui mi dice, guarda, aspetta un attimo che ti faccio vedere. Sale nella stanza, riporta una fotografia e mi dice, questa è la fine della montenegrina. E mi fa vedere questa ragazza con la testa schiacciata. Schiacciata da una pietra, perché cioè, siccome era stata ritenuta una ribelle o collegata con i partigiani, l'ordine era quella di sopprimerla, ma non sprecando pallottole. Questo per tutti, questo era l'ordine di Pierzio Biroli. E queste cose iniziano da quando c'è la presenza, lui mi racconta, da quando è arrivato Pierzio Biroli, aveva dato questi ordini e questi ordini li dovevamo eseguire, e così. Poi c'è quell'altra fotografia, è quella della gente, di questa popolazione delle vicinanze di Nisic, tenuti prigionieri su questo greto del torrente. Se guardiamo la fotografia ci sono degli uomini, per lo più sono musulmani, e un'altra persona con la quale ho parlato, che era stato testimone di questa vicenda. Gli chiedo, ma e di questi cosa ne è successo? E lui mi dice, tutti fucilati, si volta e se ne va. Parlavamo in un bar dove l'avevo incontrato, e come dice questa cosa, prende, gira e se ne va. Dico, ma anche le donne? E dice, tutti fucilati. Sì, poi tra l'altro Nisic era anche un... è un luogo che nella memoria, diciamo, locale, nazionale, jugoslava, è impresso per l'episodio del 26 giugno, quando appunto il giovane cameriere Duilio Davico, che lavorava appunto come cameriere presso la mensa degli ufficiali italiani, lanciò contro di loro una bomba a mano per fare appunto un'azione partigiana contro di loro, e non provocò vittime tra gli italiani, ma determinò come reazione, come rappresaglia, la fucilazione immediata di 20 prigionieri comunisti per opera di carabinieri italiani. E molto spesso appunto le esecuzioni avvenivano nei monti che vediamo, sui monti che vediamo anche nelle foto. E inoltre vennero avviati subito dopo, sempre a Nisic, una serie di rastrellamenti in questo distretto tra il maggio e il giugno del 1943. E quindi 42. E qui i documenti qui che ho pubblicato io, che ho trovato, sono del 43, però sì, naturalmente i rastrellamenti e la presenza italiana è precedente, quindi quel tipo di condotta è sicuramente fin dall'inizio, insomma, è fatta proprio dalle truppe italiane, anche perché poi Pierzio Biroli, come giustamente ricordavi tu, fu inviato lì in Montenegro a seguito delle difficoltà militari nel mantenimento dell'ordine pubblico, quindi venne inviato sostanzialmente in Montenegro con il preciso scopo di reprimere il movimento partigiano e rideterminare un controllo praticamente assoluto. Qui nei documenti sempre italiani del Ministero degli Esteri, ad esempio del 13 luglio, lo stesso Pierzio Biroli inviò dal Comando Superiore delle Forze Armate in Albania un piano di intervento da realizzare in Montenegro, che appunto indicò come primo scopo da raggiungere, leggo, la situazione che si sta delineando in Montenegro dal giorno 13, cioè dal giorno dell'insurrezione anti-italiana delle brigate partigiane, esige che si attuino sollecitamente dei provvedimenti con la massima energia per ristabilire le comunicazioni con Cettigne, per impedire che la guerriglia prenda piede e si estenda, e quindi per far ritornare l'ordine e la calma nel paese, effettuare per questo, una rigorosa selezione degli elementi infidi, così vengono indicati, rastrellare uomini e armi in modo completo e duraturo. Poi il documento continua esplicitando le modalità, quindi le operazioni da svolgere per giungere ai risultati sovraindicati, scrive sempre Pirzio Biroli, devono essere metodiche, ben organizzate e coordinate, estese a tutto il paese, cominciando dalla zona in cui è in atto la rivolta, che era proprio l'area intorno a Niksic in questo caso. Esatto, la pressione deve essere di estremo rigore e di esemplarità solenne, ma senza carattere, scrive Biroli, bontà sua, di rappresaglia e senza inutile crudeltà. Si distruggano i focolai di rivolta, non solo nei riguardi delle persone, ma se occorre anche dei centri abitati. Si prelevino ostaggi nella località della zona in cui si svolgono le operazioni e li si cambi di frequente con altri, quindi la deportazione, in modo che tutta la popolazione corra il rischio della repressione eventuale. E infine la direzione delle operazioni a chi sono affidati, quindi vengono conferiti pieni poteri militari su tutto il territorio del Montenegro e della provincia del Cattaro, al comandante del, in questo caso, del 14° Corpo d'Armata, che venne direttamente trasferito a Scutari. E questo appunto è un documento presente negli archivi italiani e jugoslavi a firma generale d'armata comandante Alessandro Pirzio Biroli, proprio a conferma di tutto quello che ci stavi raccontando tu, che è veramente molto molto interessante. Sì, quando io ricordo l'Achille che mi dice, quando è arrivato Pirzio Biroli tutto è cambiato, non eravamo più alpini, perché lui aveva il mito dell'alpino, no? Ecco, questa persona così già anziana anni fa, che era stata lì in guerra, poi in questo battaglione genio non faceva azioni operative, pensavano a lavorare e basta, che ne avevano a sufficienza. E lui dice, lì è tutto cambiato, perché lì hanno incominciato a fucilare, a uccidere, e questo e dopo io ho percorso la strada di contattare le persone che trovavo nelle fotografie di vita militare per sapere cosa era successo intorno a questi eventi. E questa è un pochino la storia di questo albo fotografico, no? Un diario che ho reperito in casa, fra le tante cose ho iniziato io a spazzare gli archivi di casa, diciamo le zone buie delle soffitte, delle cantine, e portare alla luce questo materiale. Io sono convinto che nelle case italiane ce ne sia tantissimo ancora di questo, senza aspettare nessun armadio, che è importante che li aprano per gli studiosi, i ricercatori eccetera, però abbiamo anche la possibilità di dire la nostra con queste testimonianze dirette. Poi io una cosa che ho rilevato è stato di queste persone la difficoltà a parlare di questo periodo, mentre invece quando parlavo con le persone che hanno fatto la ritirata di Russia, questi erano tutti entusiasti di quello che avevano fatto, lo raccontavano volentieri, anzi ce ne aggiungevano anche, mentre per il Montenegro c'era una forte, forte difficoltà. È un problema di lettura nazionale, per esempio anche lì, sempre per il discorso del mito del bravo italiano, cioè rispetto alla la differenza che intercorre tra la presenza e quindi la memoria storica della presenza militare italiana in Montenegro e quella in Russia, è che intorno alla ritirata, alla rotta dell'Armir, è stato costruito ancora una volta il mito del bravo italiano, cioè della ritirata dell'Armir in Italia si parla per parlare del per sottolineare la difficoltà dei soldati italiani, il freddo, la fame, i morti di stenti, e quindi e anche si dice che sono stati aiutati dalla popolazione russa. Probabilmente è anche vero, però questo in alcuni casi è sicuramente vero, in altri no, ma il problema è, ripeto, è un discorso legato alla lettura nazionale cioè la rotta dell'Armir è legata ancora una volta al mito del bravo italiano, cosa che non potrebbe essere per il Montenegro, per cui uno viene completamente quasi cancellato, mentre l'altro viene in qualche maniera rappresentato. Poi ci sono state anche delle splendide pagine scritte da Rigoni Stern, rappresentate in teatro eccetera, anche lì, quindi questo ha concorso a costruire comunque una memoria nell'opinione pubblica di quel tipo di esperienza, mentre per il Montenegro, come giustamente dicevi tu, non c'è assolutamente memoria di questo, soprattutto perché difficilmente ricomponibile in un quadro di unità narrativa, appunto, del mito del bravo italiano e quindi della vulgata ufficiale, ecco, diciamo. Ma così anche nella memorialistica o nella narrativa memorialistica c'è stata una complicità omertosa degli intellettuali, perché per esempio, non lo so, 100.000 gavette di ghiaccio, poi tutta la serie sempre di Bedeschi, C'ero anch'io, con tutti i nomi eccetera, ogni nome si vende un libro, anche due, quindi l'editore con più nomi si aggiungevano, poi c'era quello che scriveva, l'autore diceva ma come, ma c'ero anch'io e c'era questo e quell'altro, si raccoglievano 100 nomi, altra edizione del libro, sì, sì. Con gli altri 100 nomi, la stessa cosa è stato fatto per Ella Lamein, quante edizioni sono uscite di Ella Lamein di Caccia Dominioni, con aggiunta sempre di nomi, no? Ecco, e allora di questi periodi, di questo si parlava e di altro no. Io per esempio con Mario Rigoni Stern, che apprezzo come scrittore eccetera, molto interessante, però è stato molto appoggiato da questo comportamento omertoso, perché per esempio Remo Teglia, che era un medico di Lucca, pubblicato da Einaudi in un'edizione anche, cioè in una collana molto importante di Einaudi, che era la i Coralli, ha pubblicato un libro, Malacastra. Malacastra, ci sono questi soldati che commentano anche quello che succede. A un certo punto uno dice ma come, ma questi sono contadini come noi, mangiano il pane come noi, coltivano il grano come noi, perché veniamo a ucciderli? E per esempio Remo Teglia viene pubblicato questo libro Malacastra da Einaudi nel 62-63, sparisce in fretta dalla distribuzione, non c'è più. Parla appunto della zona di Malacastra, fra Albania e Macedonia. Sì, sì, ma infatti proprio per quanto riguarda per esempio la questione dell'eccidio di Malacascia, perché poi ovviamente noi non abbiamo minimamente memoria di quello che è stata la presenza italiana, ma naturalmente nei territori in cui invece siamo andati come occupatori hanno un ricordo molto molto vivo, per esempio sì. Dell'eccidio di Malacascia. La Malacascia viene definita la Marzabotto italiana, la Marzabotto albanese in Albania, per cui per rendere l'idea di come poi effettivamente cambino le letture, cambino le interpretazioni su uno stesso fatto storico acclarato, perché poi ripeto l'eccidio di Malacascia l'ho ritrovato qui, del 14 luglio del 43, comprese il rastrellamento e il bombardamento in un'azione militare antipartigiana di 80 villaggi che vennero rasi al suolo e causando la morte di centinaia di civili, poi non sono naturalmente neanche in maniera assoluta, completa, stati quantificati numericamente, ma si parla di centinaia e centinaia, perché 80 villaggi, immaginiamoci, insomma, appunto, se facciamo un confronto con Marzabotto qui in Italia e Malacascia viene definita la Marzabotto albanese, insomma, ci rendiamo conto di che cosa ha significato quel tipo di operazione, quella come tante altre, perché poi naturalmente noi oggi abbiamo parlato principalmente del Montenegro, della Jugoslavia, ma in Albania erano dislocati dei campi di concentramento, di internamento che erano continuamente riempiti, in Grecia i danni che sono stati causati in Grecia sono enormi, la fame, la distruzione di villaggi, le deportazioni, insomma è una memoria fortissimamente evasa, quella che riguarda i crimini di guerra italiani, ripeto, perché è una memoria non componibile con una vulgata, con una linea che ormai ha assunto una caratteristica appunto continuista sostanzialmente, certo. Infatti prossimamente, adesso appunto ammettevo questo elemento, parleremo proprio dei campi di sterminio anche in Italia, proprio utilizzando una serie di libri usciti, uno degli ultimi è di Carlo Capogreco, sì, I campi del Duce, molto interessante, e poi anche altri ne sono usciti, quindi cercheremo di fare un po' questa panoramica per cercare di affossarlo definitivamente, questo mito allucinante. Anche perché poi tra l'altro basterebbe fare un salto alla Risiera di San Saba, dove abbiamo fatto delle foto alla mappatura dei campi e che abbiamo appunto poi pubblicato qui nel libro, che rappresentano in maniera molto evidente, palese, insomma, la diffusissima presenza dei campi di internamento. Però ripeto, qui il problema è proprio di come l'opinione pubblica è stata poi in qualche maniera plasmata rispetto alla memoria, perché appunto io ho dei parenti, faccio un esempio personale, ad Alberobello, che immagino che nel dopoguerra avrà contato forse 1000 abitanti, quindi un paese dove si conoscevano tutti, dove tutti sono parenti, dove tutti sanno tutto di tutti, e lì venne installato un campo di internamento in quella piccolissima comunità, come dicevo poi all'inizio di trasmissione. Se uno chiede di un fatto di cronaca di 50 anni fa, tutti lo ricordano perfettamente. Se si chiede della presenza di un campo di internamento che vedeva comunque l'arrivo e la partenza di furgoni militari, mezzi militari, convogli che portavano centinaia di persone, nessuno ricorda niente, perché nell'immaginario collettivo ormai si è formata l'idea che il campo di internamento è un concetto, è un elemento da associare al tedesco, il tedesco invasore, e non all'italiano, appunto. Ma ce n'è stato uno anche, per esempio, fra i tanti, questo perché ho avuto a che fare con il cappellano militare di questo posto, era a Ferti, vicino a Tramariglio, vicino a Fertiglia, Alghero, in Sardegna. Uh-huh. Questo campo era stato fatto per deportare dalla Venezia Giulia, per il fatto che Fertiglia era stata una città di quelle fasciste dove avevano trasferito triestini. Quelle colonie fasciste che faceva, gli assegnavano i campi da coltivare, la bonifica agraria, eccetera, e lì erano stati trasferiti popolazioni triestine, come erano state trasferite a Sabaudia o nel Lazio, a Latina, eccetera, così. E a Tramariglio avevano fatto questo campo dove venivano trasportati slavi, diciamo, del Friuli Venezia Giulia, perché avevano il doppio controllo: avevano il controllo militare, ma avevano il controllo anche dei triestini, che speravano che questi li controllassero, perché dicevano: se tornavano ci riprendono le terre e noi un giorno o l'altro possiamo ritornare di là a riprenderci le nostre terre. Quindi si creava anche questa conflittualità fra popolazione, una deportata nei campi e una deportata per questi progetti, una trasferita per questi progetti fascisti di bonifica agraria e così via, no? E questo qui di Tramariglio nessuno se lo ricorda. Io ho parlato col cappellano militare tantissimi anni fa e mi raccontava che prima di essere colonia penale nella Repubblica, dove c'erano tutti questi ex ergastolani vecchissimi che risiedevano in queste case costruite, in questi capannacci costruiti al tempo del fascismo, e era campo di concentramento per gli slavi provenienti dal croati, generalmente, che venivano portati lì così, deportati in questo Tramariglio. Non mi ha raccontato niente di particolare di come era trattata o cosa è avvenuto, si è limitato a dirmi questo. Ecco, io questo ho saputo. Poi questo tipo di deportazioni, di internamenti, erano funzionali poi oggi. Nelle tante cose di cui abbiamo parlato l'abbiamo saltata, ma è una cosa fondamentale. La reale finalità delle deportazioni era quella della snazionalizzazione, certo. Cioè snazionalizzare i territori, appunto, sloveni, jugoslavi, montenegrini, e sostanzialmente ripopolarli di italiani, che in larghissima parte erano, tra l'altro, molto spesso, specie all'inizio, poi dopo questo si è un po' perso, erano familiari di militari che o combattevano al fronte oppure erano familiari di caduti al fronte, quindi c'era anche un cioè il fascismo ha cercato di radicare anche ideologicamente attraverso il sentito del vissuto personale delle persone, ha cercato di radicare la presenza in quei territori per utilizzarla come elemento, ripeto, funzionale al disegno complessivo della snazionalizzazione. Oh, io adesso purtroppo devo interrompere questa interessante chiacchierata, io starei a ascoltarvi in 24 ore, però i tempi della radio sono un po' ovviamente stretti, no? Ora, però, questo è solo l'inizio, come abbiamo già detto, di questa serie di, diciamo, di discussioni che gireranno un po' per tutta l'area dove l'imperialismo italiano ha cercato di mettere, di seminare strage, di mettere piede, e col contributo di chi ci ascolta, come ha fatto adesso il compagno Gavino, che poi sentiremo anche prossimamente queste sue testimonianze, e speriamo anche ne vengano altri. Tanto io adesso ringrazio Conti per questo libro. Ricordiamo il libro, allora il libro si chiama, ve lo dico subito, il libro che abbiamo presentato, L'occupazione italiana dei Balcani, Davide Conti è l'autore che sta qui con noi, e è edito da Odratec, quindi lo trovate in libreria perché è appena uscito, anche se sembra un po' esaurito, comunque lo ristamperanno, credo. Sì, quindi è molto interessante. Gavino, attenti, ringraziamo e ci sentiamo prossimamente per queste altre tue testimonianze, anzi se diventi un motore di questa ricerca, no, di testimonianze, speriamo, dirette o anche fotografiche, insomma quelle che riusciamo a trovare. Quindi ci sentiamo là prossimamente anche con te, e l'invito a tutti coloro che ci ascoltano è di mandarci attraverso il sito, cioè attraverso la posta elettronica che è ondarossa@ondarossa.it, come ha fatto l'ascoltatore che abbiamo in diretta, la scannerizzazione di alcune foto che riguardano questi argomenti. Possono essere anche lettere di militari, che i militari scrivevano spesso, appunto, data la composizione di questi eserciti, che a volte erano anche proletaria, scrivevano cose molto interessanti, cioè quindi molto critiche rispetto al comportamento dell'esercito italiano e le tragedie che vedevano. Bene, e quindi ringraziamo ancora. Io ringrazio naturalmente, ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci stamattina. Bene, Gavino, noi ci sentiamo prossimamente. Un caro saluto a te Salvatore, a Davide. Anche a te. Un grazie Radio Onda Rossa che fa cose sempre più interessanti. Grazie a tutti voi, ovviamente. Noi ci mettiamo soltanto l'uso del mix e dei microfoni. E un po' di buona volontà, quella forse sarebbe opportuna da parte di altri. Oh, noi aspettiamo altro materiale da te, ovviamente da tutto il circondario dei tuoi amici, compagni, fratelli, quelli che riuscirai a mettere in moto su questo interessante terreno. Benissimo. A presto, ciao. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere, senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete, guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni. Movimento ma del cazzo, come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista.